cos'è quest'estate? Di Deborah Rosciani. Diagnosi e firme senza alcuna visita. Sale così ad 11 la lista dei medici indagati nell'inchiesta sulle assenze sospette dei vigili urbani a Roma nella notte di Capodanno. Non ci possono imporre di fare lo straordinario, avevano detto a cavallo delle festività natalizie. Ora l'inchiesta dovrà appurare se gli agenti abbiano utilizzato quella documentazione falsa per mettere in atto uno sciopero bianco l'ultima notte dell'anno. Rimane aperta anche la questione delle verifiche fiscali per omissione di controllo. Il Ministero della Funzione Pubblica ha già chiesto di sanzionare i responsabili dei comandanti locali che non hanno inviato gli accertamenti fiscali agli agenti che risultavano in malattia. Chissà se casi come questo potranno essere ripetibili in futuro. Ce lo ricordiamo ancora tutti, anche oggi, nostro malgrado, dobbiamo ritornare su un caso romano, dopo che già ieri abbiamo parlato della questione del razionamento dell'acqua, ma non è che vogliamo proprio insistere, imperversare appunto su Roma. È stato un caso che ha fatto grande clamore, il famoso Capodanno in cui un'epidemia improvvisa colpì il corpo della polizia municipale della capitale e tutti appunto i vigili dissero no a questi orari straordinari a cavallo delle festività di Natale. Perché ci chiediamo se potranno essere ripetibili? Perché da domani arriva la stretta sui controlli sulle malattie dei dipendenti pubblici e la novità ancora più rilevante sarà l'INPS a fare le visite fiscali invece delle ASL, in modo da garantire uniformità dei controlli sul territorio. Il titolo di questa riorganizzazione è Nascita del Polo Unico per le Visite Fiscali. Mauro Meazza del Sole 24 Ore, ti piace questa riorganizzazione? Ti convince? Vince. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Naturalmente è una riorganizzazione che discende dall'attuazione della riforma Madia, lo precisiamo per dire appunto non è l'unico intervento sul settore pubblico che, di cui sentiamo parlare in questi mesi, sembra essere improntata a una razionalizzazione dei controlli, però come avvertiamo oggi su Sole 24 Ore, come potete leggere anche su altri giornali, ancora restano delle difformità tra pubblico e privato. Quindi il polo è unico, l'accertatore, l'ente accertatore ultimo è unico, cioè l'INPS. Poi la declinazione sui vari dipendenti rimane differenziata, con fasce differenziate, numero di visite differenziate e così via. E sentiamo allora se c'è nell'obiettivo di chi deve gestire tutto questo impianto l'idea di procedere verso una nuova, come dire, implementazione di questa riorganizzazione. Abbiamo con noi questa mattina collegati telefonicamente Angelo Rughetti, sottosegretario alla pubblica amministrazione, che salutiamo. Buongiorno sottosegretario, benvenuto, grazie. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno a dottoressa Maria Grazia San Pietro, direttore generale IMSS, ben ritrovata. Buongiorno. E buongiorno anche a Claudio Palombi, presidente dell'Associazione dei Medici Fiscali. Palombi, ben ritrovato. Buongiorno a tutti voi e ai presenti. Allora, 800 24 00 24, questo è un tema che comunque suscita sempre grande interesse per i nostri ascoltatori, che sicuramente avranno qualcosa da dire su questo argomento. Allora, io volevo cominciare per un attimo, se ritieni che sia una procedura corretta, Mauro. Sì, ma di solito io sono lo stagista e quindi sono io che devo chiedere il permesso a te. Infatti, allora, tra l'altro questo stage è andato piuttosto bene, al punto che ho deciso di confermare il contratto a Mauro, però sarà una forma di apprendistato. Quindi non un contratto definitivo. Direi che ancora qualche prova devo fartela fare, e quindi da lunedì si parte col contratto di apprendistato per due di denari a partire dalle 11. Com'è umana lei? Chiusa parentesi. Dottoressa, volevo cominciare con la dottoressa San Pietro dell'INPS per raccontarci proprio dal punto di vista operativo questa rivoluzione che è ai nastri di partenza e si parte proprio domani. Dottoressa San Pietro, cosa significa polo unico? Ce ne dia subito un'immagine operativa. Che differenza ci sarà tra come hanno funzionato le visite fiscali fino ad oggi e come funzioneranno da domani? In realtà il cambiamento fondamentale riguarda i dipendenti pubblici, per i quali INPS comunque nel corso degli anni ha eseguito visite mediche di controllo, ma solo a richiesta delle pubbliche amministrazioni nella qualità di datori di lavoro. A partire da domani INPS potrà disporre, analogamente a quanto fa per i lavoratori del settore privato, visite d'ufficio. E lo farà in maniera assolutamente trasparente, utilizzando un sistema che nel corso degli anni è stato creato, implementato e testato, che consente la selezione dei certificati di malattia e l'individuazione di quelli che più ragionevolmente presentano la probabilità di una riduzione delle prognosi per avviare le persone al controllo. Questo è stato fatto per i lavoratori del settore privato per molti anni. Nel solo anno 2016 ha consentito un risparmio per le casse dello Stato di circa 21 milioni di euro e quindi sarà esteso in questo momento ai lavoratori del settore pubblico, ferme restando le diversità esistenti e che devono essere superate, ma solo normativamente questo è possibile, tra la malattia dei lavoratori del settore pubblico e la malattia dei lavoratori del settore privato. Preciso che la norma che istituisce il Polo Unico di Medicina Fiscale, che risale a maggio di questo anno, prevede espressamente l'emanazione di un decreto di armonizzazione che viene normalmente pensato e raccontato come decreto che armonizza le fasce di reperibilità. Nella realtà non è così, perché sono molte le differenze di disciplina tra la malattia dei lavoratori pubblici e la malattia dei lavoratori privati, che dovrebbero un attimo essere ripensate e quindi superate. Per garantire che peraltro già sollevano alcuni ascoltatori proprio su questo tema, dottoressa San Pietro, così almeno lo segnalavo. Quindi la lascio completare il ragionamento. E niente, siamo in attesa dell'emanazione di questo decreto di armonizzazione, che sarà un decreto interministeriale, Ministero della Funzione Pubblica e della Pubblica Amministrazione e Ministero del Lavoro, che è il Ministero vigilante dell'INPS. E inoltre deve essere pubblicato, ci risulta già firmato, ma non è ancora in gazzetta ufficiale, un atto di indirizzo ad INPS per la stipula delle convenzioni con i medici fiscali, che consentirà anche di quantificare esattamente il numero delle visite che potranno essere effettuate già dall'anno 2017. Ecco, dottoressa, questo decreto di armonizzazione, però, se il patto, diciamo così, l'atto di indirizzo con i medici fiscali è già firmato ed è imminente, del decreto di armonizzazione non abbiamo ancora dei tempi o già li abbiamo? In realtà ci sono stati dei tavoli di lavoro, ci sono stati degli incontri, ad alcuni di questi ha partecipato anche INPS, però al momento non abbiamo notizie di un'imminente pubblicazione. Credo che i ministeri ci stiano lavorando. Ecco, forse il sottosegretario Rughetti ha un dettaglio dell'agenda, sottosegretario. Allora, per quanto riguarda la direttiva, è stata firmata dai tre ministri il 27 luglio, è stata inviata alla Corte dei Conti, che deve appunto dare un parere di legittimità preventivo, e siamo in attesa di questo parere, speriamo che i tempi siano brevi, perché è già passato più di un mese e quindi speriamo che la Corte ci dia il prima possibile il via libera. Per quanto invece riguarda il decreto di armonizzazione, è al parere del Consiglio di Stato, perché appunto la legge prevede che ci sia il parere del Consiglio di Stato, e quindi anche qui siamo in attesa, ma penso che sia questione ormai di giorni o settimana, non di mesi. Colgo l'occasione per dire però alcune cose anche su questo provvedimento, perché non vorrei che prendessimo la cosa dal lato sbagliato, no? Cioè, noi dobbiamo mettere questo provvedimento dentro uno schema un po' più di carattere generale. Cioè, l'obiettivo che il governo si è dato è quello di cercare di aumentare la produttività del sistema pubblico. Questo è l'obiettivo generale, che è un obiettivo fatto di alcuni interventi operativi importanti come di questo di cui parliamo oggi, perché ridurre le assenze vuol dire mantenere degli standard di qualità delle prestazioni elevate, nonché ridurre i costi, come diceva giustamente prima il direttore generale dell'INPS. Dall'altro però è un tema anche di carattere etico e culturale, perché a noi questi provvedimenti ci aiutano a distinguere, per farci capire, le mele marce dalle buone, perché è normale, come diceva sempre la dottoressa, che quando ci accorgiamo che ci sono dei certificati un po' anomali, che c'è una recidiva di alcune persone per alcune patologie in alcuni particolari giorni della settimana, ed è chiaro che lì non scatta un problema di carattere organizzativo, ma scatta soprattutto un problema di carattere etico di correttezza nei confronti dell'ente per cui si lavora, nei confronti degli altri colleghi, nei confronti della collettività in cui si sta, naturalmente, certo. Fa parte, questo è il provvedimento, come faceva parte quello sui furbetti del cartellino. Non è soltanto questo, perché noi nell'accordo che abbiamo firmato con i sindacati il 30 novembre del 2016 abbiamo insieme individuato la riduzione delle assenze come uno dei fattori qualificanti dell'intera revisione del lavoro pubblico. Perché? Perché sappiamo che qui c'è un qualcosa che non funziona, che non va bene, che va corretto e che mette addosso al sistema pubblico complessivo un'etichetta negativa. Noi sappiamo che invece 3 milioni di persone che lavorano ogni giorno alla PIA, ce ne sono la stragrande maggioranza che lavorano e fanno il loro dovere, ce ne sono altri che non lo fanno altrettanto e noi dobbiamo concentrarci. E certo, chiaramente alla ribalta della cronaca, sottosegretario, finiscono i casi clamorosi come quelli dal quale siamo partiti, che speriamo di non dover più ripetere. Insomma, vabbè, questo è il migliore dei mondi, ma l'auspicio è di poter tendere verso una situazione di questo tipo. Sentiamo anche quello che ha detto Mauro, se sei d'accordo, ieri il presidente dell'INPS, Tito Boeri, presentando il Polo Unico. Noi ci aspettiamo di migliorare l'efficienza dei controlli, di avere una deterrenza di comportamenti opportunistici, quindi ci otteniamo dei risultati positivi sia per i cittadini che devono fruire dei servizi pubblici, sia per i dipendenti pubblici e le loro condizioni di salute, sia per le casse dello Stato che potrebbero a quel punto risparmiare, la produttività dei dipendenti pubblici sarebbe più elevata nel caso appunto in cui noi riusciamo a reprimere questi comportamenti opportunistici. Ecco perché, Deborah, lo sentivamo adesso anche da Boeri, qui una differenza che lancio proprio ai nostri tre ospiti è che i controlli potranno essere operati d'ufficio dall'INPS. Esatto. Vorrei ribadirla questa cosa, perché non avviene con un compito che finora aspettava le ASL. Da domani, questa è una settimana di debutti, abbiamo celebrato il debutto della legge sulla concorrenza, adesso invece questo tipo di debutto diverso, ci sono dei controlli che possono essere disposti d'ufficio dall'INPS. E allora entra che in ha gioco... assunto appositamente un signore nuovo che si chiama Savio. Esatto, il signor Savio, che in realtà è un software però, e allora... Vorrei capire, ovviamente qui i temi sono diversi, il funzionamento di Savio, cioè di questo software che dovrà individuare queste, diciamo, recidive, come le abbiamo sentite definire, quindi gente che preferisce ammalarsi in prossimità del fine settimana, dei ponti del e così via. Del ponte del 2 giugno e del 1 maggio. E poi la disponibilità effettivamente dei controlli, quindi i medici fiscali cioè sono sufficienti, sono nelle condizioni ideali, esatto, per effettuare queste cose? Infatti oppure lo sto no? facendo scaldare. Dare Palombi proprio per commentare tutto quello che stiamo dicendo fino a questo momento. Ripartiamo con l'INPS e con la dottoressa San Pietro sul funzionamento di Savio, di questo software che incrocerà dati delicati. Dottoressa San Pietro. Savio si fonda su un data mining, che in realtà non è altro che un sistema e un applicativo che conserva tutti i dati dei certificati di malattia e in realtà elabora una serie di informazioni anche di natura statistica, che consentono la selezione dei certificati sulla base di che cosa? Dei codici nosologici, quindi della tipologia di malattia che è stata indicata dal medico certificatore, sulla base dell'anagrafica del soggetto, sulla base della ripetitività degli eventi, sulla base dei giorni dei quali stavate parlando. Incrociando tutte queste informazioni seleziona i certificati che possono essere fiscalizzati e quindi avviati al controllo. Di fatto avviene tutto in maniera assolutamente automatica, ma perché si dispone di un patrimonio informativo che INPS ha costituito nel corso degli anni, perché in questa occasione mi è insomma è gradita per ricordare che INPS riceve certificati telematici di malattia anche per i lavoratori del pubblico impiego da moltissimi anni. Per questi non disponeva visite d'ufficio, l'ha fatto solo per i lavoratori del settore privato. Adesso potrà farlo disponendo del patrimonio informativo che nel corso degli anni si è costituito grazie chiaramente ai medici di famiglia che hanno trasmesso questi certificati telematicamente. Quindi si parte da una base che è costituita dal possesso di informazioni. Questo garantirà che cosa? Uniformità di selezione dei certificati, oltre che uniformità nell'accertamento e quindi nei controlli, e questo fino a questo momento non era possibile perché l'attività era rimessa alle ASL che non disponevano di un patrimonio informativo nazionale che invece è in possesso dell'istituto, perché per una legge di stabilità veramente molto risalente i certificati dovevano obbligatoriamente essere redatti in modalità telematica e trasmessi direttamente all'INPS dei medici certificatori nel momento in cui venivano redatti. Quindi la forza è il possesso delle informazioni, poi il sistema con tutti i pregi e qualche volta i limiti di un sistema informatico incrocia le informazioni e consente l'estratto nella selezione, assegna automaticamente le visite ai medici fiscali e ne chiede la restituzione degli esiti delle visite sempre in modalità telematica, quindi registra anche gli esiti dei controlli, per cui l'INPS ogni mese è in grado di definire quante visite sono state eseguite, quali sono gli esiti delle stesse, quante persone sono state trovate assenti, per quante la malattia ha ricevuto una riduzione di prognosi. Insomma, è un patrimonio informativo importante che di fatto viene messo a disposizione del paese. Dottoressa, ma non ci sono mai stati problemi di privacy nella raccolta di questi dati? Sappiamo che no. La sanità è un punto molto delicato. No, non ci sono stati mai problemi di privacy perché la misura in realtà era contenuta in una legge finanziaria che ha previsto l'invio della certificazione di malattia in modalità telematica. L'istituto per i lavoratori del settore privato indennizza direttamente l'attività di malattia, per i lavoratori del settore pubblico una legge dello Stato ha imposto la trasmissione telematica, di fatto ha preso avvio la trasmissione telematica a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della norma, sono stati acquisiti tutti i pareri, chiaramente il primis, quello del garante, quindi di fatto c'è un interesse nazionale che è sovrastante e prevalente rispetto chiaramente al diritto alla privacy. Allora, certo che a prescindere comunque dai dati incrociati da Savio, rimane fermo il principio che sarà anche un dirigente della pubblica amministrazione che potrà disporre controlli su una dipendente che questi è anche si assenta, obbligato, ecco, in via reiterata, certo. Allora, sono le 8:30. Abbiamo un po' di spot, non vogliamo sentirli? Un po' di spot, dobbiamo sentirli, poi abbiamo i medici fiscali, o come ribadisco, fatto scaldare il dottor Palombi, perché sicuramente avrà molto da dire su tutto questo nuovo impianto, però intanto... A tra pochissimo! Ma cos'è quest'estate? Ma perché il lavoratore che non va al lavoro deve avere degli orari di libera uscita? Se sta veramente male deve rimanere a casa tutto il tempo. È talmente cristallino questo commento che probabilmente rappresenta quello che pensano in molti, ma il dibattito è vecchio. Beh, come lo è, direi. Sì, no? Poi c'è anche giurisprudenza forse sulla materia, copiosa giurisprudenza, perché poi c'è il medico che richiede che l'ammalato si rechi allo studio e non va a visitarlo, oppure ci può essere il periodo di convalescenza, oppure, quindi... Guarda, una volta a me è capitato, ero proprio atterrata dalla febbre, avevo qualcosa come 39, l'azienda mi chiedeva il certificato, io vivo da sola, non mi reggevo in piedi una lite col personale. Posso dirlo? Posso raccontarlo? No, nel senso che poi c'è qualcuno che ha altri problemi anche rispetto a quello di cui parliamo questa mattina. Per fortuna nessuno è venuto a controllarmi perché ero veramente stesa. Non c'era ancora Savio, probabilmente. Non c'era ancora Savio, ma diciamo che ha ben pochi dati questo database. Gli ascoltatori possono testimoniare che godo di ottima salute stando sempre qua. Allora, debutta da domani il polo unico dei controlli fiscali, delle visite fiscali, sono affidati all'INPS al posto delle ASL anche i controlli d'ufficio per i dipendenti pubblici, la grande novità di queste ore della quale parliamo anche questa mattina. Allora, le nuove disposizioni richiederanno un maggiore impegno da parte dei medici fiscali e ieri Tito Boeri, presidente dell'INPS, ha riconosciuto: abbiamo carenze di medici in alcune regioni, ma faremo un bando per nuovi medici a cui estendere la convenzione già operativa dell'INPS. Claudio Palombi, presidente dell'Associazione dei Medici Fiscali, un'organizzazione con la quale ci eravamo già confrontati qualche anno fa, quando a seguito di una importante riduzione di budget in realtà su di voi era calata una scure significativa. Palombi, allora, qual è il suo giudizio complessivo rispetto a tutta questa operazione? E poi siete preoccupati effettivamente per i numeri? So che questa considerazione l'avete espressa ripetutamente. Un maggior carico di lavoro che si ripercuoterà su di voi, con che modalità? Palombi, volevo salutare i presenti e sottolineare la tenacia dei rappresentanti politici di portare fino in fondo la riforma, perché le difficoltà sono state tante e diciamo le difficoltà appunto incontrate non è stato facile superarle per le posizioni diverse dei vari interlocutori. Lei, dandomi la parola, ha sottolineato un aspetto centrale della vicenda. L'INPS ha prodotto negli ultimi 4 anni una forte riduzione del controllo del settore privato, quindi i medici oggi in servizio, fatta esclusione per alcune realtà urbane, di forte urbanizzazione, dove la concentrazione del lavoratore privato è rilevante, diciamo ha un po' sottodimensionato l'attività dei singoli medici fiscali, per cui oggi ci troviamo con un bacino di medici in servizio che è, tra virgolette, sottoutilizzato rispetto alle reali possibilità di produrre lavoro, quindi di produrre controllo. È vero quello che dice INPS, ci sono delle realtà locali, generalmente al nord e nei grossi centri urbani, in cui si può realizzare, si sta realizzando una carenza di medici. E va bene, ci sono, come previsto dalle disposizioni di legge già approvate, e non posso perdere l'occasione per ringraziare il sottosegretario Rubetti a questo proposito, ci sono le disposizioni, le indicazioni per immettere i medici che si renderanno necessari per effettuare i controlli. Io come presidente dell'Associazione dei Medici Fiscali INPS sono portatore di esigenze di tipo lavorativo, quindi rappresento non l'istituto, non i lavoratori in malattia, ma coloro che fanno i controlli. La nostra richiesta è quella di metterci nelle condizioni operative, in parte ci sono, perché l'INPS, bisogna dare atto, ha provveduto ad una aggiornamento continuo e la digitalizzazione del sistema può dare dei frutti sia nel brevissimo che nel breve periodo riguardo alla vicenda dei controlli. Però ecco, dicevo, bisogna procedere non tralasciando da parte anche quella che è l'esigenza oramai diventata matura di coloro che svolgono questa attività, di procedere ad un inquadramento che consenta una, oltre che di svolgere il lavoro, anche una maggiore tranquillità degli esercenti questo tipo di attività. No, quindi sì, adesso c'è Mauro Meazza con una domanda, però in realtà volevo ritornare con un inciso su un punto che lei ha specificato. Da quello che io avevo capito anche nei giorni passati, leggendo qualche anticipazione rispetto al debutto del Polo Unico, in realtà, come dire, la categoria dei medici fiscali avrebbe lamentato una carenza di personale per esercitare i nuovi controlli. Da quello che lei invece mi dice, c'è addirittura qualche area in cui la categoria è sottoutilizzata e quindi non lamentate in realtà una carenza di personale realtà, che dovrà effettuare il nuovo meccanismo di controlli. La realtà è in verità un po' a macchia di leopardo. Ci sono delle zone in cui il carico è in eccesso rispetto al numero di medici presenti, ma qui va fatta una reintegrazione, no? Vanno individuati altri medici che possono svolgere il servizio. Ci sono addirittura delle realtà in cui avviene l'opposto, cioè c'è una pletora medica e che quindi risulta sottoutilizzata. Nella valutazione di carattere generale, attualmente i medici in servizio sono utilizzati, potremmo dire, a un 50% delle loro possibilità, cioè in relazione alla durata dell'attuale fascia di controllo c'è un sottoutilizzo generalizzato dei medici di controllo, per cui è questa una fase sperimentale e quindi si dovrà vedere come potrà funzionare il sistema. La forza lavoro c'è, ci sono delle zone di carenza e questo è stato indicato dallo stesso presidente Boeri, lo ha ribadito la stessa dottoressa San Pietro. Noi siamo pronti ad essere, diciamo, utilizzati e a scendere in campo in questo tipo di attività. Dal nostro punto di vista non ci sono dei cambiamenti sostanziali, cioè la procedura, la tipologia della verifica rimarrà la stessa, i sistemi in uso tecnologici che oggi abbiamo saranno gli stessi. Le cose che cambieranno, come avete appunto indicato, sarà l'aumento di bacino del lavoratore da controllare, che è appunto il lavoratore pubblico, quindi circa 3 milioni di unità in più, e diciamo le fasce orarie, che ancora oggi rappresentano un piccolo problema, che andrebbe chiarito secondo noi verso una unificazione, una equiparazione tra i due settori, pubblico e privato, anche perché la persistenza di fasce così diverse crea dei problemi logistici di utilizzazione degli stessi medici sul campo. Mi pare di capire che però ecco, l'orientamento sia questo, di andare verso l'uniformità delle fasce. Sì. C'è un problema di urgenza. L'onorevole Roghetti ha indicato, diciamo, delle tappe che si stanno realizzando e noi si spera che al più presto si possa arrivare a questo, anche perché nell'atto di indirizzo si fa esplicito riferimento alla possibilità per i medici che fanno questo tipo di attività di, diciamo, consentire la discussione con INPS di una convenzione ad hoc. E quindi questi sono dei passaggi necessari, doverosi, che noi chiediamo che vengano realizzati al più presto per poter giungere a discutere proprio con l'ente, con INPS, una organizzazione anche dal nostro punto di vista del lavoro e del modo del nostro utilizzo in questo tipo di attività. Certo. Adesso le facciamo rispondere da San Pietro e Rughetti, Mauro. No, era proprio quello che volevo chiedere, cioè ma come mai c'è allora un sottoutilizzo? C'è un altro passaggio a questo punto, quindi sembra credibile l'obiettivo del 500.000 di controlli che era stato segnalato come possibile, come obiettivo auspicabile dal presidente dell'INPS Boeri. Questa certo. È una domanda un po' anche per la dottoressa infatti. San Pietro, oltre che per il dottor Palombi. Certo, San Pietro, INPS. Tutto quanto detto finora risponde è assolutamente condivisibile. Relativamente al sottoutilizzo dei medici, sono due i fattori importanti da tenere presenti. Il primo è quello relativo alla distribuzione oggi dei medici fiscali, che ricordo hanno con INPS una convenzione, ovvero una posizione tutelata da decreti del Ministro del Lavoro succedutisi nel tempo. Infatti noi al nostro interno li chiamiamo medici iscritti in liste speciali. La loro posizione tutelata ci impedisce di disporne il trasferimento verso realtà che avrebbero invece delle carenze, per cui di fatto i medici che sono iscritti in liste speciali in una provincia, fatti salvi casi eccezionali e quindi possibilità di movimento verso territori assolutamente vicinori, non possono essere trasferiti. Cioè, sono convenzionati, non sono dei dirigenti assunti dalla Polizia. Esatto, è una posizione tutelata ai sensi di legge, ancorché la norma di natura regolamentare, però a questo bisogna attenersi. Perché sono sottoutilizzati i medici? In primo luogo perché la distribuzione non sempre è coerente, come detto. In secondo luogo perché materialmente esistono dei vincoli di budget per l'istituto, che comunque l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha un suo bilancio, destina che viene approvato dai ministeri vigilanti e destina ogni anno delle risorse per queste attività. Queste risorse nel corso del tempo hanno ricevuto una contrazione e quindi inevitabilmente l'attività di medici, soprattutto dove i medici erano numerosi, ha visto un calo. Adesso con l'avvio del polo unico vengono trasferite ad INPS delle risorse per lo svolgimento di questa attività, quindi noi riteniamo che il problema possa essere dal punto di vista dei medici assolutamente risolto. Fermo restando che bisognerà provvedere a reintegrare le liste nelle realtà che risultano carenti. Ci sono città metropolitane che hanno per esempio un medico fiscale convenzionato e questa situazione chiaramente non può protrarsi con l'avvio del polo unico e bisognerà correre ripari è stato già fatto, bisognerà prevedere delle misure strutturali. Beh, per certo. Questo l'importante è che si sia dell'atto di indirizzo che si 500.000 controlli. Sulla base di quanto speso per i lavoratori del settore privato, della serie storica dei controlli effettuati nel corso degli ultimi 2 o 3 anni, noi riteniamo che sia un obiettivo possibile. È chiaro che bisognerà sedersi con i medici fiscali ad un tavolo all'indomani della pubblicazione dell'atto di indirizzo, quindi la disponibilità dell'istituto a colloquiare è massima, a parte che avviene ai sensi chiaramente di legge, c'è disponibilità a trovare soluzioni massimamente condivise, però è chiaro che si tratterà di concordare il costo delle visite fiscali, perché dal costo delle visite fiscali discende il numero dei controlli che alla luce delle risorse trasferite possono essere effettuati. Noi riteniamo quell'obiettivo di 500.000 di visite assolutamente raggiungibile, è chiaro che dipenderà dall'esito dallo svolgimento delle trattative. Certo, e sottosegretario Rughetti, come vigilerete affinché tutto funzioni correttamente secondo gli standard che sono stati indicati ieri e naturalmente rispondendo anche un po' alle sollecitazioni da parte degli ascoltatori, un caso come quello del Capodanno dei Vigili Urbani di Roma, come potrebbe ragionevolmente finire o essere gestito alla luce di queste novità? Ma allora, intanto mi faccia dire due o tre cose che raccolgono un po' i punti emersi durante questo dibattito. Il primo, questo è un punto di arrivo dopo una faticosa traversata nel deserto che comincia con un'indagine conoscitiva nel 2014 in commissione alla Camera, alla quale partecipai, e da lì abbiamo cominciato a lavorare insieme all'INPS, insieme ai ministeri, insieme ai medici fiscali, per trovare una soluzione che oggi va in campo. Quindi diciamo, le cose non succedono a caso, succedono perché c'è un'espressa volontà politica di andare in una direzione sorretta da tanti interlocutori, osteggiata da tanti altri, ma oggi diciamo, possiamo dire che siamo arrivati a meta. Due, il presidente Boeri molte volte diciamo, stimola il governo a fare delle cose, oggi il governo si aspetta che l'INPS metta in campo ogni sforzo possibile affinché tutti gli strumenti che sono stati dati a disposizione, sia di carattere normativo sia di carattere economico, consentano di aumentare il numero dei controlli. Farli d'ufficio è un passaggio fondamentale, perché non è più la pubblica amministrazione che chiama, ma è un soggetto terzo che interviene. Quel soggetto terzo è quello che paga e quindi ha un interesse, no, a andare fino in fondo. Noi ovviamente monitoreremo tutti i dati che emergeranno da questi primi mesi di attività. Tenderei a smussare un po' quest'angolo della omogeneità delle ore di reperibilità tra pubblico e privato. Perché? Perché diciamo, per la prima volta è il pubblico che ha dei numeri diciamo, diversi rispetto al privato, perché i dipendenti pubblici hanno una reperibilità di 7 ore, mentre i lavoratori privati di 4. Quindi noi oggi stiamo allargando il bacino della competenza dell'INPS ai pubblici, che hanno una parentesi di reperibilità più ampia rispetto ai privati. Quindi mi sembra che non sia un fatto limitante, no? Ma sia un fatto che allarga la potenzialità di intervento dell'istituto. Poi, se questo invece, dal punto di vista proprio strettamente operativo, dovesse, come diceva prima il presidente dell'Associazione dei Medici Fiscali, dovesse creare dei problemi proprio di carattere operativo, il governo ovviamente li valuterà. Cercherà insieme a tutti gli interlocutori delle soluzioni. Cosa ci aspettiamo alla fine di questo percorso? Sicuramente ci aspettiamo di avere un miglioramento delle performance dei dipendenti pubblici e del sistema pubblico complessivo. Ci aspettiamo una riduzione dei costi, sia diretti, cioè di gestione. Noi più o meno passiamo da 70 milioni che prima venivano dati alle ASL attraverso le regioni ad una cifra che gira intorno ai 50 milioni a regime. Quindi un risparmio. Ci aspettiamo un ulteriore risparmio dei costi indiretti, perché quando un dipendente pubblico è assente o va sostituito o comunque l'attività si ferma, quindi la produttività ne risente. Quindi, siccome la pubblica amministrazione è un pezzo del nostro sistema produttivo, è chiaro che la nostra capacità di sistema paese di produrre diminuisce, quindi questo comporta una serie di ulteriori negligenze di carattere indiretto, di costi in carattere indiretto che il sistema paese si fa carico. Questi sono tutti elementi che adesso vanno messi sul campo, sul territorio. Hanno ragione secondo me i medici fiscali, perché da questo punto di vista va affinato lo strumento, perché noi abbiamo alcune province dove ci sono tanti medici che fanno poche visite, in alcune altre province ci sono invece pochi medici che fanno tante visite. Questo vuol dire che ci sono alcuni lavoratori che ricevono più visite, altri meno. Ci sono medici fiscali, passato il termine, che fatturano di più e medici fiscali che fatturano di meno. Allora qui va trovata un giusto contemperamento degli interessi delle parti, direbbero quelli bravi. Cioè dobbiamo trovare una formula che consenta di, da un lato, fare in modo che i lavoratori sentano il fiato sul collo, fatemelo dire così, in modo che ci capiamo, ci capiscono tutti. Dall'altro bisogna fare in modo che i medici fiscali siano tutelati e incentivati a fare visite fiscali, perché altrimenti se noi non mettiamo questo duplice interesse in contrapposizione, rischiamo che poi chi ci rimette è sempre il nostro paese, quindi i cittadini che sono costretti a spendere soldi e non avere risultati finali. Tra l'altro, sì, no, sottosegretario, che stiamo andando verso la chiusura, ci sono anche degli ascoltatori che vogliono intervenire, poi noi parliamo in termini generici, no, di dipendenti della pubblica amministrazione, magari dicendola così a qualche ascoltatore il dibattito interessa poco, se poi identifichiamo nel dettaglio, no, le varie categorie. Mauro mi sollevava un foglietto e diceva, per esempio, gli insegnanti, per esempio, perché sappiamo che quando si aprono le scuole ci sono sempre problemi, perché uno magari, non so, magari si è ammalato veramente, o magari invece produce certificati per così non presentarsi a scuola. Ecco, questo anche, oltre che ai vigili urbani che ricordava prima Deborah, dovrebbe essere un fenomeno. Il medico fiscale che deve intervenire sul medico assenteista, tantissimi casi delicati che potremmo, come dire, rassegnare questa mattina. Per chi era la domanda, Mauro? Chi vorresti rivolgerla? In realtà al sottosegretario Rughetti, cioè poiché lui ha più volte ricordato che questo è un punto, uno dei punti d'arrivo della riforma Madia, e allora ci sono delle aree della pubblica amministrazione particolarmente delicate, la scuola è una di queste, dove questo dovrebbe associarsi ad altri interventi, ad esempio il maggiore merito o la norma anti furbetti del cartellino, i licenziamenti celeri che abbiamo segnalato qualche tempo fa. È così, comprendiamo correttamente, sottosegretario? Ci metto anche, sottosegretario, il provvedimento del quale non si parla più, non so se è sparito, se ce l'avete ancora all'ordine del giorno delle vostre attenzioni, per l'autocertificazione delle malattie fino a 3 giorni, però non so se quello era un ambito un disegno che riguardava di legge solo il parlamentare, privato. Ecco. Questo non so se il governo ha un qualche interesse a portarlo avanti. Rughetti. Allora, guardi, fermiamoci un attimo sul polo unico, sugli effetti che possono produrre, poi sui lavori parlamentari, se volete aggiungiamo qualcosa, ma l'obiettivo è proprio questo, cioè l'obiettivo è quello di evitare quello che è successo a Roma il 31 dicembre, perché lì ci sono una serie di cause che si concatenano l'una all'altra, ma che, come dire, mettono a riparo chi fa il furbo e espongono una comunità a non ricevere un servizio. Perché dico questo? Perché lì c'è i dipendenti che fanno una sorta di sciopero bianco, vengono tutelati da un certificato medico fatto in buona fede, immagino io, c'è un processo che sta verificando questo davanti al Tribunale di Roma, e c'è un'amministrazione che però non, come dire, non è cattiva, no? Cioè, non mostra i denti nei confronti di questi soggetti e quindi non attiva subito questo percorso di controllo e vista. Oggi invece questo sistema viene rotto perché noi mettiamo dentro una funzione che si attiva d'ufficio da parte dell'INPS, e quindi quando l'INPS in quel caso riceve 1000 certificati medici, tutti relativi ai vigili urbani di una città, è chiaro che scatterà Fabio sulla sedia, no? E manderà i controlli a casa di queste persone senza aspettare la telefonata del dirigente, del personale o del collega che dentro il comando dei vigili urbani di Roma si occupava di fare questa cosa. Ora, rompere questo schema vuol dire rompere una situazione che, ripeto, fino ad oggi è stata molto anomala, che ha creato dei casi come quelli che state dicendo voi. Quello della scuola è un altro caso tipico, dei certificati mandati all'inizio dell'anno a ripetizione con classi che purtroppo hanno avuto o sono costrette ad avere dei supplenti a singhiozzo, perché poi magari non è neanche sempre lo stesso supplente. Se volete possiamo aprire anche un altro elemento sul quale il governo si sta concentrando, che è l'utilizzo della legge 104, che è una legge sacrosanta che nessuno vuole minimamente toccare, perché è una legge veramente che regola la civiltà di un paese, ma è chiaro che dobbiamo andare a vedere perché delle amministrazioni la applicano in un modo e perché altre amministrazioni la applicano in un altro. Se io vado in alcune province del sud e vado a vedere il numero dei professori che ha diritto alla 104, vedo delle percentuali oltre il 90%. Vado a vedere in alcune province che sono di territori diversi, la percentuale è del 30%. Sì, poi che succede? Che succede? Io queste cose qui le voglio capire, poi magari è così perché è oggettivamente così e mi accontento. E invece, come io penso, c'è qualcosa di anomalo, voglio andarci a scavare sotto e vedere se attraverso una regola diversa si può avvicinare a dare una soluzione più giusta, più equa, senza voler fare il il castigamatti, ma soltanto cercando di voler mandare senza doversi accanire, ma solamente giustamente per rendere un po' un sistema più corretto. Allora, io non riesco a sentire né la dottoressa San Pietro né Claudio Palombi, solamente perché c'è un ascoltatore che è pronto a dire la sua da un sacco di tempo, poi non li chiamiamo la mattina, non li facciamo mai intervenire. Paolo da Milano, ce la fa rapidissimamente? Sì, provo veloce. Riforma secondo me piena di chiacchiere e pochi fatti, ci fa chiudere così in bellezza, Paolo? Ma sono un po' diffidente, perché a parte malattie come mal di testa, mal di schiena, voglio vedere chi riesce poi a provarle se sono vere o no. E la recidiva, per esempio, il lunedì che attacchiamo alla domenica, che cosa succede poi? Questo non è stabilito. E per ultimo, la rappresentante dell'Ips ce l'ha fatto capire molto bene, l'aumento dei controlli dipende dai vincoli di bilancio. Mi sembra un po' come quegli stanziamenti di cui si parla del governo e poi non seguono i soldi da dare effettivamente. Quindi, secondo me, il medico che è interessato a livello economico, come tutti gli esseri umani, sarà molto più incentivato economicamente a svolgere un'attività visita medica privata, di cui lui è specialista, piuttosto che ad essere remunerato dall'impresa. Quindi non ci saranno, secondo me, questi aumenti. Certo. Tutto questo. Grazie Paolo. Beh, allora, siccome Rughetti ci ha detto che comunque il ministero censirà poi, no, l'esito di questo nuovo... Parole di speranza, quelle dell'ascoltatore. Esatto, esatto. Detto questo, noi fra qualche mese rimettiamo insieme Angelo Rughetti, Maria Grazia San Pietro e Claudio Palombi per farci fare un punto della situazione, se sono soddisfatti dei risultati ottenuti dall'attività di questo polo unico delle verifiche. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie Mauro, so che tu te ne vai, io adesso invece vado a sentire il giornale radio, poi ritorno però con la seconda parte del programma. Parleremo del fatto che gli italiani si muovono proprio poco e stanno ritornando ad utilizzare l'auto. Non serve a nulla il car sharing, la bicicletta, l'inquinamento, niente, vogliono tutti l'auto. Ne lo parlammo sul Sole 24 Ore qualche settimana or sono. E io lusingata, tratta da quell'inchiesta, la porto a Ma che cos'è quest'estate, tra poco. Il segnale orario vi è offerto da... Sei in ritardo! Ma ho comprato le pizze Roncadin. Non sei in ritardo. Roncadin, nel banco freezer. Ma cos'è quest'estate? Facciamo la rivoluzione se ci va. Ma niente come stare nella macchina. Nella macchina. Allora sì, parliamo del nostro rapporto con l'auto, anche un pochino controverso, il nostro mezzo di trasporto preferito. Lo dicono ineluttabilmente molte indagini, alcune delle quali pubblicate di recente, rielaborate, lo dicevamo prima scherzando con Mauro Meazza, anche dal Sole 24 Ore. Intanto sto registrando commenti di ogni tipologia, naturalmente sul tema che abbiamo affrontato in precedenza, sulla nascita del polo unico delle visite fiscali da parte appunto dell'INPS. È evidentemente, come quelli che ci capita di affrontare spesso, un tema profondamente divisivo e alcuni chiaramente sostengono che ci sono ancora dei pezzi mancanti a questa, tra virgolette, riforma. Detto ciò, l'importante è, secondo me, che si sia partiti in questa riorganizzazione anche delle visite fiscali, soprattutto a carico della pubblica amministrazione. Ci sono sempre le modalità per migliorare laddove le cose non funzionano, gli obiettivi ci sono, secondo anche quanto c'è indicato il sottosegretario Rughetti. Chiaramente parlano anche i medici di base, che naturalmente ricordano come abbiano correttamente, dico io, delle responsabilità precise. I sintomi delle persone che ti indicano che non stanno bene non si possono certo ignorare, perché poi le responsabilità vanno a carico loro, per cui è un tema delicatissimo, molto importante, per cui è anche corretto, secondo me, che si sia proceduti con l'introduzione di questa novità della quale abbiamo parlato questa mattina, dalla quale parlano con tutti quanti i giornali, con gradualità, poi a sistemare in meglio le cose, secondo me, si fa sempre in tempo. L'importante è partire. Se non si fosse partiti a far niente, allora avevamo sicuramente ragione di contestare quello che non esiste, ovviamente, è un sistema anche della PA che non funziona, e la questione delle assenze reiterate. Cambiamo totalmente argomento, come avete sentito anche dalla canzone che abbiamo deciso di utilizzare per introdurre il nuovo argomento, che affronteremo fino alle 9.30. Poi nella seconda parte e ultima di questa seconda ora di Ma che cos'è quest'estate, andremo a Venezia per il via al Festival del Cinema. Ci sono delle cose meravigliose, tante feste, tante novità anche, che ci racconterà la nostra Marta Cagnola con un altro ospite. Però anche per la cinematografia è un momento molto molto intenso, e quindi tutte le curiosità poi più tardi le sentiremo. Allora, nel 2016 preferire i mezzi pubblici o, meglio ancora, gli spostamenti in bicicletta oppure a piedi è stato solo il 32% della popolazione. Pensate che si tratta di un dato in calo del 15% negli ultimi 15 anni. E questi dati sono stati diffusi dall'ISFORT, l'Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti, nel rapporto sulla mobilità in Italia 2016. L'auto, e questa non è una novità, tende a monopolizzare ancora le scelte dei mezzi di trasporto degli italiani. Nel complesso, circa 2 spostamenti su 3 si effettuano in auto, in gran parte come conducente, un'incidenza che è cresciuta di quasi 8 punti rispetto al 2001, e la crisi economica non sembra aver intaccato questa tendenza. Anche l'Istat, in alcuni dati relativi ai soli spostamenti casa-lavoro, conferma questa attitudine dell'italiano. Solo un italiano su 10 si reca sul posto di lavoro a piedi, in 7 invece guidano l'auto. La preferenza per l'auto si comprende ancora meno osservando i tempi medi impiegati dagli italiani per spostarsi ogni giorno da casa al luogo di lavoro. Meno del 20% ci mette più di mezz'ora per raggiungere l'ufficio, mentre quasi il doppio dichiara di spendere meno di 15 minuti ogni giorno. Allora, che succede? Siamo diventati tutti più pigri, nonostante le battaglie che abbiamo fatto con Nicoletta Carbone con cuore e denari per rilanciare un po' di sensibilità sullo stile di vita, il movimento fa bene, eccetera, e invece niente. Ci spostiamo in auto, ci piace farlo così. Allora, c'è anche da dire che sicuramente molto spesso le condizioni del trasporto pubblico delle nostre città non ci sensibilizzano verso il loro utilizzo, e ci sono tante altre ragioni che attengono a questa situazione. Allora, noi stamattina la commentiamo con Carlo Carminucci, economista dei trasporti e direttore del settore ricerca di ISFORT, dal quale appunto abbiamo fatto proprio abbiamo creato questa trasmissione sulla base dei vostri dati. Professor Carminucci, buongiorno e grazie. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. E poi sentiremo stamattina anche Giuseppe Giulio Calabrese, dirigente di ricerca CNR IRCRES, che ha invece firmato per il Sole 24 Ore un commento che è stato pubblicato un paio di giorni fa a corredo di un'inchiesta sul futuro dell'automotive, che a sua volta ha seguito un'inchiesta che ha fatto il nostro Paolo Bricco, ritornando un po' sui luoghi del delitto, come dire, nelle zone del Michigan che hanno avuto un bel po' di problemi con l'industria automobilistica, quindi Detroit, l'emblema della crisi del settore dell'ultimo decennio, ma che adesso sta vivendo una prodigiosa rinascita che ha anche dell'incredibile. Per cui, Calabrese, buongiorno e grazie anche lei di essere con noi questa mattina. Il suo commento si intitola "Una rivoluzione che è stata troppo lenta", poi ci racconterà di che rivoluzione parla. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, Carminucci, cominciamo un po' con lei. Io qualche dato rispetto al vostro rapporto l'ho dato, e ne viene fuori appunto che siamo effettivamente dei pigri, che non ci spostiamo a piedi neanche a morire, ma probabilmente, come dire, dal punto di vista scientifico in realtà il rapporto racconta ben altro rispetto alle motivazioni per cui 2 italiani su 3 scelgono ancora l'auto, cosa della quale l'industria è ovviamente molto contenta. Basti guardare i dati sulle matricolazioni, che sono in continua crescita da almeno 4 anni a questa parte, quindi l'industria si è rimessa in pista, l'italiano un po' meno. Carminucci. Ah, sì, diciamo, i dati essenziali li ha ricordati lei, e aggiungerei innanzitutto che si tratta di un dato strutturale di lungo periodo, che deriva forse dall'inizio dell'epoca della motorizzazione di massa, ecco, diciamo, da quando questo dato questo tasso di motorizzazione, quindi la quantità di auto possedute dalla famiglia italiana, si è impennata, tant'è vero che su questo indice siamo leader in Europa addirittura, e quindi c'è una radicata abitudine degli italiani ad utilizzare l'automobile, che fino a qualche anno fa era vissuto come uno status symbol. Adesso ci sono dei segnali che qualcosa sta cambiando, e quindi bisogna agire innanzitutto su questo fattore culturale, cioè gli italiani, se hanno disponibilità economica e possibilità, non lasciano certamente l'auto in garage. Dopodiché, da un punto di vista delle politiche, le ragioni, posto che c'è questo dato, diciamo, culturale di fondo, le politiche in questi anni non hanno aiutato molto ad invertire questo trend. E cito per brevità solamente 2 fattori principali. Il primo è un problema proprio anche di pianificazione delle reti dei trasporti, dei servizi del trasporto pubblico, unita all'integrazione con il tema della pianificazione urbana, cioè se ovviamente si costruisce zone residenziali o centri commerciali o fabbriche continuamente all'esterno delle grandi aree urbane poi le residenze si spostano sempre più lontane dai centri, è chiaro che i pendolari faticheranno sempre di più a arrivare ai loro posti di lavoro, di studio, eccetera, e quindi questo, in assenza di servizi di trasporto pubblico adeguati, comporta un maggiore utilizzo dell'auto proprio, insomma, certo. Ecco, questi grandi aree residenziali privi di servizio che conosciamo, specie in alcune grandi città, sono un fattore che allunga gli spostamenti, certo. Chiaramente non si può andare a piedi o in bicicletta, e se non ci sono nemmeno i servizi di trasporto pubblico. Esatto, quindi prime responsabilità, tra virgolette, intanto proprio le caratteristiche urbanistiche delle nostre città e la riconfigurazione che stanno registrando, e poi il tema dei servizi pubblici di trasporto. Esatto, infatti l'altro grande fattore è un po' il tema dei servizi del trasporto pubblico, perché è ovvio che se si vuole favorire il cosiddetto shift modale, quindi il passaggio dall'utilizzazione dell'auto a mezzi di trasporto più sostenibili, bisogna creare delle alternative. E qui nascono un po' i problemi, perché per ragioni anche di vincolo di bilancio, negli ultimi anni, in particolare negli anni dal 2010-2011 al 2014, c'è stata una riduzione dei contributi del Fondo Nazionale Trasporti, quindi dei soldi disponibili per i servizi di trasporto pubblico, e quindi poi le regioni o gli enti locali si sono dovuti riorganizzare, in alcuni casi hanno banalmente tagliato in proporzione le corse e i servizi, in altri hanno cercato di razionare e di riorganizzare, hanno magari certo. approfittato anche per pianificare meglio i servizi. Il problema è stato un po' questo, che nella fase in cui la crisi economica avrebbe potuto favorire questo cambio della ripartizione dell'utilizzo dei mezzi di trasporto, lì c'è stato un po' un taglio che ha ucciso, questa possibilità, sul nascere un po' questa possibilità di cambiamento. Ecco, queste sono alcune delle ragioni. Ne aggiungo una terza per completare il discorso, che è più di tipo congiunturale, ma che ha un suo effetto, cioè in fondo in questi ultimi anni il costo della benzina in alcuni anni è stato calante, quindi è vero che la crisi economica ha ridotto le disponibilità finanziarie per i consumi delle famiglie, però in proporzione magari il costo del trasporto con l'auto, che è il costo della benzina, che è quello più direttamente percepito dall'utente, che a volte non fa molti calcoli sui costi complessivi dell'auto, l'acquisto, la manutenzione, l'assicurazione eccetera, se quello diminuisce c'è una spinta a comunque utilizzare l'automobile, perché poi agisce sempre un po' questa leva culturale che dicevo all'inizio, quindi è una combinazione di fattori non favorevoli, per cui in effetti anche in un'epoca di crisi come è stata quella un po' degli ultimi 8-10 anni, non abbiamo registrato nel nostro osservatorio un cambio del modello di spostamento. Sì, a parte in certi momenti proprio in cui la crisi è stata veramente acuta, l'industria automobilistica ha richiesto ancora gli incentivi fiscali per l'acquisto eccetera, dopodiché non appena qualche minimo segnale di risveglio economico c'è stato, ecco che l'italiano ha ripreso ad acquistare l'auto, quindi in certo modo non più status symbol, ma insomma come rappresentazione di una risveglio economico. Allora, detto questo, peraltro saranno sicuramente anche i temi dei quali si parlerà dal 16 al 22 settembre nel corso delle iniziative della settimana europea della mobilità, che si concentra ogni volta che viene organizzata su un particolare argomento relativo alla mobilità sostenibile. Per l'edizione 2017 il tema focus è mobilità pulita, condivisa e intelligente, a cui si accompagna lo slogan condividere ti porta lontano, perché stiamo vivendo anche l'era della sharing economy all'interno della quale ovviamente l'utilizzo dell'auto condivisa è il settore proprio re. Allora, Calabrese, quello che raccontava Carminati fa proprio un po' a pugni con tutto quello che di altro sta succedendo nel settore complessivo della mobilità, diciamo, dei trasporti. Abbiamo dall'altro tutta la nuova tecnologia legata al lancio dell'auto elettrica. Lei nel suo commento sul Sole 24 ricordava che poi comunque ancora stiamo parlando di un ambito di nicchia. Abbiamo il fenomeno del car sharing, le città sempre più inquinate, tutte le misure per ridurre le PM10 e dall'altra parte però ancora questo italiano che rispetto a tutto quello che sta succedendo non è che si sensibilizzi più di tanto e vuole l'auto a tutti i costi. Insomma, che cosa ci dice questo? È uno scontro, questo è un conflitto? Comunque ancora il tema è che non sono maturi i tempi per una rivoluzione della mobilità che si dica completa e radicale. Ma intanto non solo l'italiano, in tutto il mondo più o meno abbiamo un modello abbastanza simile. Noi italiani siamo un po' più indietro anche per abitudini tutte nostre. Noi siamo un mondo abituati alla grande flessibilità e l'auto è il mezzo di trasporto più flessibile con la bicicletta. Quindi rispetto ai nostri usi comuni l'auto è quella che più si avvicina alle nostre abitudini. Quello che mi concentravo nell'articolo uscito ieri è semplicemente che siamo abituati a ragionare in termini di desideriamo ragionare in termini di rivoluzione industriale, di nuovi cambiamenti, di nuovi paradigmi dell'auto 4.0 però, anche qua, Però in verità non siamo di fronte a una rivoluzione ma piuttosto a una evoluzione molto lenta, anche perché questa tematica dell'auto elettrica, delle nuove propulsioni, non è la prima volta che la stiamo affrontando, anzi dagli anni 90, anche precedenti, all'inizio di questo secolo, ugualmente si pensava di essere di fronte a una vera rivoluzione del cambiamento della mobilità, ma questo non è avvenuto. Soffermo soprattutto sul mezzo di trasporto, poi sono subentrate nuove anche modalità di utilizzo con il car sharing, ma anche il car sharing ha le sue limitazioni, nel senso che non vediamo, rispetto a quello che immaginavamo solo un paio di anni fa, non vediamo questa grandissima diffusione del car sharing, immaginando anche il fatto che car sharing in verità ha spostato soprattutto utenti dai mezzi pubblici all'auto in circolazione. E anche ci sono state delle recenti statistiche, non solo italiane, che alla fine l'utilizzo medio delle auto in car sharing è lo stesso dell'utilizzo dell'auto privata. Quindi ci vogliono, soprattutto come diceva anche il collega precedentemente, delle politiche e soprattutto un'ottima programmazione per poter convincere a modificare i nostre abitudini, oppure come è successo per esempio nella mia città, il fatto del blocco dei diesel più vecchi per tutta la settimana ha obbligato alcuni senza particolari incentivi a cambiare l'auto, in riferimento soprattutto ai professionisti, che l'auto, il mezzo di trasporto, devono usarlo obbligatoriamente. E quindi quello che si prospetta in verità è una lenta evoluzione, anche perché l'aspetto fondamentale è che gli attori principali sono gli stessi. Nel senso che quando l'auto ha sostituito le carrozze, gli attori erano completamente nuovi e diversi. Adesso sono sempre gli stessi, a parte Tesla, che è un fenomeno molto particolare, molto di nicchia, che anch'esso ha delle ripercussioni ben diverse da approfondire, perché non è soltanto auto elettrica, ma è un modello di business completamente diverso. Gli attori principali sono sempre i soliti noti e quindi loro hanno intenzione di fare uno sviluppo molto più graduato, considerando anche il fatto che all'interno del mondo, perché l'auto interessa tutto il mondo, abbiamo anche delle situazioni ben differenziate, dove l'Europa ha puntato fino agli ultimi anni sull'auto a combustione interna, in particolare il diesel. Gli Stati Uniti l'auto a combustione interna alla benzina, i paesi sudamericani sull'etanolo, i cinesi più sull'elettrico, e quindi abbiamo una situazione variegata, macchia di leopardo, ma dove i principali attori sono sempre quelli che conosciamo, i nomi li conosciamo tutti, tra cui c'è anche la nostra FCA. FIA. E certo, Fiat Chrysler. Allora, intanto stavo, mentre con attenzione ascoltavo le considerazioni di Giuseppe Giulio Calabrese, così curiosavo anche tra i messaggi, adesso sentiremo anche delle telefonate degli ascoltatori. Intanto saluto affettuosamente Lia che dice: ipotesi con base concreta, preferiamo l'auto perché possiamo ascoltare Radio 24 e su questo allora Lia lunga vita ai trasferimenti in auto. Detto questo, magari con il telefono, con il podcast si può utilizzare lo stesso, si può ascoltare lo stesso Radio 24, e poi vabbè, a parte questo, comunque molti ascoltatori ovviamente ci raccontano quello che accade nel loro territorio e le motivazioni per cui oltre l'auto le alternative non ce ne sono. Andando all'Interland milanese, da Melegnano ci racconta Emanuele: posso arrivare in bici all'Adda, quasi al Po e non a Milano, zero piste ciclabili, via Emilia, la conosco molto bene Emanuele, pericolosissima, ma guardi, le stesse riflessioni si fanno all'interno di Milano, dove non è che abbiamo una condizione molto soddisfacente per le piste ciclabili. Glielo dice una che dall'anno scorso utilizza un po' di più la bicicletta, ma magari in un periodo come agosto dove c'è pochissimo traffico lo faccio molto volentieri, già da questi giorni è più faticoso. Buongiorno dalla Versilia, sarebbe bello poter fare a meno di prendere la macchina, ma provate voi ad abitare nella provincia di Lucca e non avere niente, ma dico niente, a disposizione tra treni, autobus, nulla, la macchina e nient'altro. Ecco perché ci si muove poco con i mezzi pubblici. Altro ascoltatore, Marco: abito nell'Interland milanese, in una cittadina che 15 anni fa, quando mi sono trasferito, contava 5.000 abitanti, ora è raddoppiato con riduzione delle corse dei servizi pubblici di collegamento a Milano. Insomma, cosa possiamo commentare? Carminucci, certamente dal punto di vista istituzionale chi si dovrebbe occupare di questi problemi, avremo sicuramente modelli virtuosi sul territorio, ma altre parti che sono completamente lasciate a se stesse, quantomeno si ha questa sensazione, cittadini che sono lasciati a se stessi anche nella, come dire, raccolta di sensibilità di questo, su questo tema. Carminucci. Diciamo che tanto i dati che abbiamo citato sono dati medi complessivi, poi giustamente, come le ricordava lei, ci sono a macchia di leopardo situazioni anche molto diverse. C'è molta differenza anche tra ciò che accade nelle grandi città e cosa accade nei piccoli centri. Mi sembra in che Italia proprio... di piccoli centri il tema è che ce ne sono tanti e c'è una conformazione territoriale molto speciale. Infatti noi sottolineiamo molto questo dato che spesso sfugge al cittadino comune, cioè nelle grandi città dove insomma l'utilizzazione del trasporto pubblico o di questi nuovi modelli. E certo, certe politiche le puoi portare avanti, altrove sono, no. Però insomma, nelle grandi città vive il 15% della popolazione italiana e poi tutto il resto in un tessuto diffuso di piccoli centri, di aree a bassa densità, e lì il problema è enorme, come peraltro ricordavano chi ha voluto segnalare, cioè chi vive nell'Interland milanese e dice sta in un centro che aveva 5.000 abitanti, adesso ne ha 50.000, esattamente l'effetto che citavo prima io, esatto. No? Lo spostamento di popolazione verso le cinture, con addirittura una percezione di riduzione delle corse e dell'offerta dei servizi di trasporto pubblico. Capisco che c'è un problema di bilancio per tutti, per lo Stato, per le regioni, eccetera, però io personalmente credo che se non si passa attraverso un potenziamento dei servizi del trasporto pubblico, certo cercando di controllare al massimo l'efficacia, e qui vedi il discorso sulla pianificazione dei servizi, e anche l'efficienza di questi servizi, perché spesso e tutt'oggi sappiamo che soldi pubblici dati a realtà del trasporto pubblico significa un po' metterli in un pozzo senza fondo, però se si riesce a spendere bene questi soldi, un potenziamento dei servizi soprattutto per la media e lunga percorrenza è indispensabile. Dopodiché nelle aree sul breve raggio, nelle aree urbane, medio urbane eccetera, si può puntare molto appunto sul trasporto più sostenibile, in bicicletta, a piedi, le politiche sono tante, vanno integrate tra di loro, e anche sulla sharing mobility, su cui io condivido molto quello che diceva prima Calabrese, cioè se guardi, l'abbiamo anche noi ricordati, i numeri non sono ancora numeri da massa critica così importante, per cui al di là un po' di quanto che se ne parla molto, sono fenomeni che noi monitoriamo con estrema attenzione, perché siamo anche noi convinti che il futuro passa anche attraverso queste forme di mobilità condivisa, ma da oggi la diffusione di questi servizi è necessariamente bassa. Insomma, il car sharing vero sta in solo 4 città, che sono le grandi città, e tutto il resto del territorio che se ne fa. Quindi, esatto, alcuni servizi, se vogliamo, più tradizionali, tra virgolette, magari reinterpretati in maniera moderna, sfruttando anche l'intermodalità, le combinazioni modali, l'infomobilità, eccetera, però legate al trasporto pubblico, devono essere ancora la spina dorsale dell'offerta di servizi alternativi all'automobile, altrimenti non si va. Poi la grande rivoluzione, i salti di paradigmi cambieranno gradualmente nel tempo, ma oggi sì, però colpisce come questa stia avvenendo con questa, tra virgolette, lentezza, nonostante abbia tutti i presupposti invece per decollare, sì. Esatto, con tutta la rivoluzione. Stavo appunto riguardando anche gli appunti dei commenti di ieri che ricostruiscono l'inchiesta di Paolo Bricco, come Detroit, da ghost town, da città fantasma, dove si comprava una casa a $500 ville, una città che era diventata deserta per la crisi dell'industria automobilistica, adesso si sta completamente, e lo ha fatto molto rapidamente, riconvertendo invece al laboratorio nuovo, la nuova Silicon Valley, addirittura per l'automotive 4.0, quindi là si va tutto in maniera così veloce, qua da noi invece siamo sempre un po' più comodi nelle rivoluzioni. Ci metto insieme, per concludere poi con Calabresi, il commento di Angelo da Milano, che deve essere telegrafico, e lo sarà, nostro amico, però lo prendiamo. Angelo, benvenuto. Buongiorno. Senta, io volevo fare un po' un appunto su quanto riguarda le aziende di trasporto, il quale non si è andato mai a vedere come queste veramente i fondi vengono spesi, e il management, diciamo, ha un grosso peso, perché io ho lavorato dentro queste aziende e so quanto i dirigenti percepiscono e quanto vogliono far apparire alla popolazione di buon servizio, invece poi alla fine in realtà non c'è questo buon servizio. Basta viaggiare sui mezzi per rendersi conto di quello che c'è sui mezzi. Grazie Angelo, visto che lei è di Milano abbiamo capito anche l'azienda per la quale ha lavorato. Io condivido, io l'unica cosa che posso dire, non me li vorrei inimicare, che non mi piacciono tanto come guidano i suoi colleghi a Milano del trasporto pubblico. Detto questo, la rivoluzione della metropolitana si sta facendo, merito anche di Expo, però qua è inutile concentrare il dibattito su Milano, l'Italia è altro, Calabrese, qua possiamo parlare quanto vogliamo, ma io sono marchigiana, arrivo da un paese che è tutto collinare, hai voglia lì a utilizzare la bicicletta, non la usa nessuno, tant'è vero che me la sono comprata a Milano alla mia veneranda età. Beh, ci sono anche le biciclette con il motore elettrico, con la batteria. No, lì a Castelfidardo non ce la farei. Comunque, detto questo, ma solo due commenti aggiuntivi. Beh, grazie. Innanzitutto ricordo che le varie municipalità dovrebbero stabilire i piani urbani di mobilità sostenibile, detti PUMS all'italiano, SUMP all'inglese, che l'Unione Europea finanzia in modo adeguato e sostiene, e anche il nostro ministero ha stabilito un tavolo tra le varie regioni in modo tale da diffusione e l'obbligo di stabilire questi piani di sviluppo urbano per la mobilità. Quindi questo vuol dire che innanzitutto c'è una posizione politica che deve essere presa in modo chiaro. Secondo aspetto, che non dimentichiamoci mai, che l'auto, qualsiasi altro mezzo di trasporto, non è soltanto un mezzo per muoversi, ma anche un mezzo, tra virgolette, produttivo, nel senso che è sicuramente un volano dell'economia, perché riducendo i tempi di trasporto, riducendo la logistica e quant'altro, facilita lo sviluppo economico. Quindi la politica deve intervenire indubbiamente, ma in modo tale da salvaguardare l'aspetto ambientale, l'aspetto di mobilità e l'aspetto economico. Voi continuate intanto a studiare questi trend molto interessanti, poi ce li venite a raccontare a Radio 24, così condividiamo con i nostri ascoltatori questi argomenti che sono sicuramente molto appassionanti. Grazie a Giuseppe Giulio Calabrese, dirigente di ricerca CNR, Carlo Carminucci, economista dei trasporti, direttore del settore di ricerca ISFORT. Adesso ci fermiamo, la pubblicità, e poi andiamo a Venezia. Ma cos'è quest'estate? Per quanto tempo resterà con noi, signor Bratter? 6 giorni. E 6 notti. È un piacere avervi qui al palazzo. Io pensavo di mettere un disco e di farti una danza cambogiana della fertilità, così, guarda. Ma che ti prende? Che cos'è? Che stai facendo? Io sto cercando di farti ribollire il sangue, tu stai facendo una ringa. Il nostro matrimonio è fallito. Indovina cosa sono. Sei ubriaco. Finalmente te ne sei accorta. Sei proprio ubriaco fradicio, Paul. Allora, io non voglio dire il titolo di questo film che quest'anno compie ben 50 anni, invito gli ascoltatori ad indovinarlo, chiamateci all'800 24 0024, in premio potrete andare con Marta Cagnola a Venezia a seguire il Festival del Cinema. Marta, ben trovata, buongiorno. Te ne vuoi portare un po' con te? Io non dico il titolo, no. Però possiamo dire il nome dei protagonisti. Proviamo, vediamo se ti sentiamo bene, perché sento qualche intoppino. Allora, ditemi se mi sentite bene. Adesso io bene. Mi sento alla grandissima. Allora, no, forse sono io che ho spostato qualche filo. Allora, lo diciamo agli ascoltatori in questo momento. Sono a casa, sto preparando la valigia, sto facendo il caffè, sto passando l'aspirapolvere. Quindi se c'è qualche intoppo tecnico è perché io sono collegata da casa. Molto allora. Bene. Allora, intanto i nomi dei protagonisti di quel brano di film... clamoroso, spettacolare, che ricordiamo tutti, tu puoi ricordarli. Esatto, io li amo. Aspetta Marta, Elford. Che ti perdiamo, aspetta un attimo. Mi perdete? Adesso ci siamo, vai. E qui sono i collegamenti internet, che insomma non è che possiamo essere proprio sempre così attrezzati. Allora, Jane Fonda e Robert Redford, mi stava scappando il titolo. Niente Marta, ti perdiamo. Marta, ascolta, facciamo una cosa, stai ferma lì. Noi così abbiamo preso atto del tuo grande, come consueto, come sempre c'è spirito di iniziativa e creativo di collegarci appunto con il cosiddetto codec da casa, ma non ce la facciamo, adesso la chiamiamo al telefono. Allora Marta ci stava dicendo che i protagonisti del film di cui vi abbiamo proposto un brano sono Jane Fonda e Robert Redford, che arriveranno a Venezia a presentare il loro ultimo film, ma io non voglio ricordare il nome invece del film che abbiamo sentito prima, che compie 50 anni quest'anno, che è veramente storico per la storia del cinema, per l'appunto. Adesso vediamo se Marta ti abbiamo ripescato, eccoci qua. Ma niente. Perché per forza le cose si funzionano in prova, mai dal vivo. La legge di Murphy è stata elaborata, certo, proprio per questo motivo. Allora vai. Sta arrivando il titolo del film, stanno scrivendo gli ascoltatori. Ancora no, Robert Redd. No, dai. Sì, ragazzi, sì, guarda, ecco qua. WhatsApp, ecco. Mi stanno tempestando. Ah, ecco, se no non vi porto a mangiare gli knicki con me a Venezia. Sì. A piedi nudi nel parco. Stanno arrivando gli ascoltatori. Guarda, vabbè, già l'ho detto io perché li accontento e quindi riconosco che sono molto preparati. Allora, Marta, perché abbiamo scomodato questo film? Allora, Piedi nudi nel parco è questo film che celebra una delle coppie più belle del cinema, Jane Fonda, Robert Redford, Leoni d'oro alla carriera a Venezia. Peraltro protagonisti di un film attesissimo a Venezia. Noi abbiamo spesso parlato in questi mesi con Alessandra Tedesco del meraviglioso Le nostre anime di notte di Kent Aruff, un libro che è stato molto molto amato anche dagli ascoltatori, libro che è diventato film e che viene presentato in anteprima alla Mostra del Cinema. Quindi loro sono lì festeggiati, ma anche con un film nuovo, peraltro talmente nuovo perché essendo Netflix siamo assolutamente nel terzo millennio, nel come terzo millennio della cinematografia di infatti. E quindi ecco. Allora, tutto... detto questo, questa è la 74esima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Ho appreso questa mattina, Marta, colpevole ignoranza da parte mia, che si tratta del festival più antico al mondo, cioè più vecchio del mondo, ma li porta benissimo, però noi abbiamo anche questo merito, diciamo così. Ma sai che davvero non tutti lo sanno, perché poi vabbè, noi siamo sempre un po' esterofili in genere, forse non tanto esterofili, ma ci sminuiamo sempre, quindi uno dice vabbè, quale sarà il festival più antico? Cannes. Penseranno tutti i Cannes, e invece no, perché il precursore di tutto è stato proprio Venezia. E ovviamente tutti gli altri festival hanno preso un po' questo modello. Insomma, cosa dobbiamo dire? Venezia 74 si dice in gergo. In gergo si dice il numero dell'edizione associato alla città che ospita. Sì, sì, mentre quest'anno Cannes era stato Cannes 70. Chiarissimo. E quindi capito che li abbiamo battuti. Quante cose ci insegni sempre, per questo che io adoro averti sempre in trasmissione. Guarda, ti porterò anche a Due di Denari con Mauro Meazza, anche ma se certo. Parleremo tanto di soldi e fisco, ma troverò il modo per infilarti. esperti in qualche maniera. Senti Marta, ma quali sono insomma le caratteristiche di questa edizione? Intanto Matt Damon è arrivato e ha presentato il suo film in cui si rimpicciolisce per studiare il problema enorme della sovrappopolazione mondiale. Sì, sempre di più la fantascienza spiega la società attuale. È strano come i registi continuino a spiegare i tempi di oggi, che sono davvero difficili da descrivere, con i film di fantascienza, che sono quasi sempre una metafora dei problemi di oggi, oppure i film noir, perché anche il noir racconta molto delle atmosfere del presente. Ci saranno molti film italiani, ad esempio, dei toni molto amari, staranno a piangere, fanno anche un po' spaventare, ci saranno film abbastanza violenti, i tempi d'oggi tanto. Però tu mi hai chiesto spirito della mostra, allora finalmente tornano i big, tornano le star, tornano i divi. Allora, un po', vabbè, che bello, vedremo i vestiti sul red carpet, vedremo le fotogallery sui siti, eccetera. Però significa anche che si può ricominciare a investire nel cinema, che ricominciano le major americane a investire nel cinema, tanto da portare i cast in Europa e a un festival europeo, perché è molto costoso portare il cast di un film a un'anteprima in un festival europeo. Cioè, dagli Stati anche Uniti. Perché ricordiamolo, questi signori non è che vengono esattamente per stare nell'ostello fuori Venezia. Nel mio bed and breakfast, che è pure bellissimo, non vengono. Ecco. No, bisogna trattarli in un certo modo. Insomma, poi sono spedizioni molto numerose, molto difficili. Staff non sono che hanno dell'incredibile. Cioè, no, tra l'altro, adesso a parte il risveglio dello stato di salute dell'industria cinematografica, diciamo che quest'anno c'è anche l'aspetto sicurezza e quindi forse anche questa grande presenza di questi VIP del jet set cinematografico in qualche maniera indica che forse si prova anche a combattere un po' tutta la paura rispetto a questo, e le misure di sicurezza credo che tu incontrerai da sabato in avanti non saranno proprio indifferenti e secondarie, Marta. No, infatti, allora intanto saranno molto presenti per chi arriva a Venezia in macchina, perché in tanti arrivano a Venezia in macchina e o lasciano la macchina nei parcheggi all'ingresso di Venezia oppure prendono il traghetto e arrivano al Lido. Non tutti lo sanno, non diamolo per scontato, al Lido circolano le macchine, perché Lido è un'isola molto grande, quindi c'è anche chi si porta la macchina al Lido. Ecco, ci sono delle barriere molto importanti per chi entrerà a Venezia in auto, gli ultimi metri si fanno proprio a zigzag e pare che sia una prova per un sistema antiterrorismo che potrebbe non durare solo nei giorni della mostra, ma essere implementato. Poi ovviamente tantissimi controlli all'ingresso delle sale, red carpet molto più vigilato rispetto agli anni passati, però ecco, nessuno ha dato forfè e questo è molto importante. Assolutamente. Allora, c'è il traffico, ma adesso io chiuderei la parentesi legata a questi aspetti perché voglio sapere che cosa ci aspetta, quali film ci aspettano nelle prossime stagioni, come li si potrà vedere, perché guardate che non è necessario andare solo a Venezia per assistere a queste grandi anteprime con gli esponenti dello Star System. Si possono vedere alcune anteprime di Venezia anche rimanendo magari a Milano, a Roma, e adesso vi spiego come. Detto questo, Marta, ti dico anche che fino ad ora hanno chiamato in 7, non solo per dare il titolo giusto del film dal quale siamo partiti, ma perché vogliono venire in vacanza con te a Venezia, e adesso qualcuno te lo presento. Io li porto con me. Esatto, li sì, loro pensano sempre, che non hanno ancora capito che quando tu vai o a Venezia o alle altre manifestazioni a Sanremo lavori giorno e notte per mandarci pezzi, loro pensano che tu stai lì. Esatto, a tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Ma cos'è quest'estate? Anna Maria da Torino, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei aveva indovinato il film? Sì. Ce lo ricorda? Sì. Assolutamente, benissimo, perché sono due attori bravissimi, bellissimi e li ricordo con affetto. È un'appassionata di cinema Anna Maria lei, quindi segue con attenzione le notizie che arrivano da Venezia in questi giorni? Ma insomma, non proprio, Cerco di tenermi aggiornata, ma non sono così, insomma, preparata. E comunque, insomma, aveva indovinato. Vuole salutare Marta? Va bene, ok. Ma che meraviglia, io posso portare allora Anna Maria a Venezia con me, ci viene con me a Venezia. Assolutamente. Anna Maria. Io adoro Venezia, adoro è un grande amore, vengo volentieri. Ah, che allora, meraviglia. No, tra l'altro, Venezia lo faccio. Grazie Anna Maria. Allora adesso intanto Marta parte sabato. Marta, ma ci sono tra le varie curiosità, adesso a parte tutti gli attori che arriveranno a presentare i loro ultimi lavori, in realtà tra le varie curiosità di più modesta portata che gli ascoltatori si pongono sono, per esempio, se uno avesse tempo nei prossimi giorni di fare un salto a Venezia per assistere a qualche prima per un comune mortale, è possibile farlo o no? Guarda, sì, è una cosa che, alla quale io tengo molto, perché sembra sempre che quando i giornalisti vanno a Venezia o a Cannes o a Berlino e parlano di film, sembrano che arrivino da un altro pianeta, anche perché poi spesso i film in sala si vedono dopo molti mesi, non sempre sì. escono insieme, cosa che invece a me piace molto, perché mi piace dire questo film lo potrete vedere subito. Ci sono due modi per vederlo. Allora, intanto si può andare a Venezia. Allora, sembra una cosa fantascientifica, ma non lo è. I biglietti per le sale di Venezia sono tante, sono in vendita online, basta andare sul sito della Mostra. Io ho fatto una prova adesso. Il biglietto più costoso, che è quello per la prima proiezione alla presenza del cast in sala grande, insomma molto molto esclusivo, ho fatto la prova in platea questa mattina, costava 48 euro, quindi è 4 volte il biglietto normale. No, non sto però, dicendo di data no. La circostanza è fattibile anche per un appassionatissimo. Esatto, certo. Però per un'esperienza a dire sono andato a vedere un'anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. Poi invece se si sceglie un'altra sala, perché c'è la sala d'Arsena, la sala di Pala Biennale, ci sono tantissime sale a Venezia, si spende anche come un biglietto del cinema normale. Mm-hmm. E si ha la possibilità di respirare l'aria veneziana, vedere dei film che magari poi arriveranno in sala tra molto tempo, magari nemmeno arriveranno in sala. Si può dormire fuori dal Lido, che è un po' più caro, perché ci sono i vaporetti che portano direttamente al Lido e direttamente dalla parte del Palazzo del Cinema, partendo da Venezia. Quindi per un'esperienza, per veramente dire una volta nella vita sono andato al Festival del Cinema di Venezia, si può fare, Può andare alla Mostra. Per chi proprio non si potesse spostare a Venezia e rimane in qualche altra città italiana, noi vi presentiamo invece un'altra alternativa per assistere alle prime veneziane. Ce le racconta Stefano Losurdo, segretario generale dell'AGIS, l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, che salutiamo e ringraziamo per essere con noi stamattina. Buongiorno, grazie a voi. Allora, qua dobbiamo raccontare agli ascoltatori come funziona l'iniziativa Le Vie del Cinema, Losurdo. È un'iniziativa molto semplice, da 37 anni Milano presenta una qualificata selezione della Mostra di Venezia e da qualche anno anche del Festival di Locarno. Quindi dal 19 al 27 settembre, a distanza quindi di una settimana, presenteremo circa 30 film da Venezia e 7 film dal Festival di Locarno. Tutti in lingua originale, con i sottotitoli in italiano chiaramente, nelle sale milanesi. E lo stesso accade a Roma dal 14 al 20 settembre. Ecco, sono come dire, iniziative che piacciono alla platea dei cittadini, naturalmente, non solo degli appassionati di cinema, che in qualche maniera hanno la possibilità di vivere anche l'esperienza dei grandi festival, no? Anche se un po' in remoto, come dire, un po' a distanza, Losurdo. Però assolutamente sì. Il pubblico ci segue con una grande passione, tutti gli anni noi vediamo una partecipazione di 15.000 spettatori di biglietti venduti, il biglietto costa 8 euro, ma è possibile anche comprare delle cinecard che permette di abbassare il prezzo del biglietto, cinecard per 6 ingressi a 27 euro oppure per 12 ingressi a 48 euro. Quindi anche quello è un aspetto importante, perché qualcuno magari se ne può guardare un po' in più. Dal 19 al 27 settembre, ricordiamo, Milano, Roma, le città coinvolte e quasi tutte le sale cinematografiche delle città, che esatto, naturalmente per una settimana saranno presidiate. Che stagione ci dobbiamo aspettare dal punto di vista cinematografico, Losurdo? Intenso, interessante per gli appassionati, ma non solo, insomma, secondo lei che qual è il meglio che si potrà vedere nei prossimi mesi? Allora, se vedo la Mostra di Venezia, quest'anno a mio avviso ha una programmazione molto più eterogenea, dove mischia molto bene film importanti, film d'autore, film di nicchia, quindi se guardo il programma di Venezia sono molto fiducioso. Certo, il mercato cinematografico italiano presenta dei problemi strutturali purtroppo non ancora risolti, per esempio la carenza di film nell'estate. Questo è veramente un gravissimo per il mercato delle sale ed è un fatto unico in Europa. Speriamo che questo fatto anacronistico venga superato nei prossimi anni, è veramente un punto molto dolente. Devo dire che però, per esempio, ovviamente io qua poi dobbiamo fare sempre questi ragionamenti milanocentrici, ce ne dispiace perché l'Italia è tantissimo altro, ovviamente in realtà ci sono delle grandi rassegne, magari Marta qua mi può aiutare, in cui si fa un po' il riepilogo di quello che è stato perso nel corso dell'anno, no Marta? Per cui magari sì, alla fine l'estate... Sì, allora il fatto che appunto siamo un po' milanocentrici e romacentrici perché queste iniziative importanti spesso vengono fatte a Milano e a Roma. Il problema dei piccoli centri è che magari ormai i cinema piccoli sono spariti e ci sono i multisala per i quali bisogna fare un viaggio, ma soprattutto che hanno una programmazione a multisala, quindi, ma non mi sto riferendo a città piccolissime, io mi riferisco anche, io ho una cugina che abita a Como e mi dice a Como se non vado il primo fine settimana i film spariscono. Allora le rassegne sono davvero importanti, bisogna sempre tenerle d'occhio perché sia durante l'anno, magari durante la settimana, che alla fine dell'anno tutti i film più importanti vengono riportati alla luce. Ci sono film che magari si sono persi perché sono rimasti solo fine settimana di programmazione, oppure c'è la possibilità di vederli in lingua originale. Aprire gli occhi su queste rassegne perché sono veramente importantissime. Infatti. Marta, allora, un minuto prima di salutarci, parti sabato, ci dicevi, hai già fissato delle interviste con qualche VIP, con qualche personaggio interessante. Io so che conoscendoti ti sarai organizzata al micro dettaglio, anche perché per manifestazioni di questo tipo in realtà è necessario farlo, magari prendi contatti prima, ovviamente con gli staff dei partecipanti, degli attori. Che cosa c'è nella tua agenda? È imprescindibile. Allora sabato, io parto solo sabato perché insomma un po' di cose da sbrigare in redazione, però ascolterete Cristina Battocletti del Sole 24 Ore in questi due giorni. Sabato è la giornata di Suburra, torniamo a Netflix, la prima produzione italiana di Netflix tratta dal libro Suburra, sono molto molto molto curiosa. Infatti, benissimo, allora ti auguriamo naturalmente buon lavoro per questa nuova avventura che so che ti appassiona sempre molto. A presto, io ringrazio anche Stefano Losurdo, segretario generale dell'AGIS, l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo. Per chi volesse partecipare alle Vie del Cinema, Losurdo, qualche raccomandazione agli ascoltatori va fatta? Assolutamente, basta consultare il sito lombardiaspettacolo.com, si troveranno tutte le informazioni per vedere i film. Magari prenotarsi anche un po' prima queste tessere, perché so che sono straffollate le sale. Assolutamente, vorrei solo sottolineare un aspetto importante. Noi cercheremo di privilegiare soprattutto i film che avranno difficoltà nelle uscite nelle sale o che magari potranno anche non uscire, quindi dei film cerchiamo di sostenere in particolare un certo cinema di qualità. Ci teniamo molto a questa funzione. Grazie a Stefano Losurdo, grazie a Marta Cagnola. Un ascoltatore dice: ma non avete detto il titolo del film, ma come? A piedi nudi nel parco, Robert Redford, Jane Fonda, 1967, e questa straordinaria coppia ritorna al Festival del Cinema di Venezia per il premio alla carriera. Grazie a tutti per essere stati con noi, torniamo domani, buona giornata.